vale, addormentato, sì. Oh, oh, oh, là. Dammi da sei. Ma vado. Dammi da sei, eh. Che? Ma però. Sì, chi? Ma però dammi da sei. Dormita sono. Dammi da sei, ma però. Bello. Drommi, cicita. Andiamo in terrazzo, sì. No, dentro. Dentro? Ma che non mi intendi? Eh? Ma che non mi intendi? Sì, ma cazzo non capivo chi era, perché arrivavi a tre, in lì, dentro casa. No, so che dentro casa, va, con l'icco. Con il portatile, sì. E adesso sì, prima ero col buffing. Se sta uscendo bene. Vabbè, un'antennina autocostruita. Ah, ma esterna gliel'hai fatta. Attaccata al portatile. Ah, ma che cazzo buioso, anche una della grande nasuglia, magari esce meglio. Con la sua? Ehi. No, dici che è peggio. Esatto, prova a metterla a vedere, dal segnale, fa un passaggio con questa. Allora, guarda con questa è quella telescopica. E mi arrivi 7. Aspetta, metto la sua. Questa è la sua. Fa un passaggio. Guarda, sempre nella stessa posizione. E la sua, siccome queste antenne di queste radio hanno una piccola prolunghetta da attaccare, cioè la prolunga più lunga, vabbè, in tutta l'antenna è 25 centimetri. E allora dilli a quello che ti ha detto che esci meglio con l'altra, con questa 6-9, 9-5, esci meglio con la sua antenna. Mazia, guarda che c'è la spalla a mezz'altra. Apri e chiusi, quella tua. La sua con la telescopica. Ma Lu, dipende dalla zona. Io con quella l'altra ti sentivo più basso. Con questa 6-9. Aspetta che provo a chiuderla l'altra, rimetto l'altra e provo a chiuderla di uno stilo. Ehi. Guarda adesso. Allora adesso l'ho chiusa praticamente, l'ho portata alla stessa lunghezza dell'originale. E 7. Sempre lo stesso segnale, adesso l'allungo, guarda, Così è tutta, praticamente tutta aperta adesso. Così è tutta aperta. Appena più basso, sì. Vedi che ha peggiorato, si scherzi. Con la sua originale arrivi 9. E anche la modulazione cambia, rimane più forte. Adesso è tutta chiusa, vedi un po'? 7,5. Ed è tutta chiusa. L'originale, lo stilo telescopico. Sì, bene. Sì che vuole tutta chiusa praticamente, perché se l'apre è peggio. Ah, se l'apre arrivi a 5, a 3, di anzura. Sicché così è 7,5. Ma tu mi ascolti bene con... Io sto usando quella piccola, non sto usando la grande. C'era nel balcone io, è un'autocostruita, Sì, vabbè, siamo vicini, così che... Ma mi ascolti bene? Sì, ho voglia. Ma spero rimetto l'originale. Cazzo, figurati. Ed ce l'ho attaccata nella finestra di camera. Ma quale stai usando? Questo è l'originale. Ma quale stai usando? Quella con i due stili? No, allora ho fatto quella come ha fatto Gio Maria, con lo stilo e il radialino. Poi me ne ha dato un'altra bacchisio che me l'ha fatta lui e questa qui è molto meglio perché c'è anche più ricezione. Perché quella che usa Gio Maria gliel'avevo fatta io forse un annetto fa. Che c'ha, è una J-Pol praticamente che c'ha dentro casa. E lui usa quella lì, ed è uguale a quella che abbiamo fatto noi poco tempo fa. E come ricezione sì, ricevi bene, però preferisco più quella che ha fatto Bacchisio, che l'ha fatta come una Grand Prix piccolina. E sto usando quella lì. Ah, già arrivi qua. Già arrivi. E vabbè, poi vogliono tarate bene anche. E questa minimo è riuscita a tararla a 1,3-1,4. Poi meno cavuai in quelli piccolini così, meglio è. se no è tutto cavo pure, c'hai perdita. E che appunto di cavo cosa va giù sarà due metri di manco di cavo, 2 metri di cavo, to. E poi ho messo quel cavo che mi avevi dato tutti, ricordi, il 155. Guarda che la potenza al minimo. E devo abbassare lo squelch io lui, perché se no non ti sento. Invece così te lo apro lo squelch. Vai. Vedi un po' come era prima praticamente. Aspetta che commuto l'altra antenna e ti ricavere se ti sento, dai, che metto quella lì, quella sul tetto. Prova. Guarda, così è puntata, vabbè, verso la buti, dai. Adesso sì, 3. 3? Aspetta, guarda così, così è verso il campo sportivo. E beh. Non ti intendo, Lu. Non mi intendi prima, adesso è girata verso la buti e mi senti. Se la giro verso il campo sportivo non mi senti, come te? Adesso non ti senti, c'è l'antenna SM adesso. E così la, così è verso la buti, guarda, adesso la giro, la radio è verso il campo sportivo. Se la gira che non ti sento più. Perché sei con l'esterna. Cazzo, ma se ti sentivo con l'altra, cosa, come ti significa questa cosa? Per sentirmi la devo girare la radio verso la buti. Cazzo, forse perché c'ha, fa da cosa, da spicchio, perché l'antenna mia è verso la buti, infatti. Per quello sicuramente. Cazzo, di è. Il lettere è strano, ma se te l'ho detto io. A volte il segnale arrivano più forti, più lontano che gli altri che c'è vicino. E cosa Ma adesso sto usando il pezzato con l'antenna in gomma. Con l'originale. Ti sento bene, non è come mi ascolti. Secondo scala, però se lo giro non mi senti più. Aspetta un attimo, allora, prova a girarla adesso. Guarda, te lo faccio in diretta. Adesso è dritta la radio, adesso è verso il campo sportivo. Adesso ti sento. Hai cambiato antenna? Io non mi sono mosso da qua, ho solo girato la radio. Allora, prima eri verso il campo sportivo e ti sento, così è. Adesso è verso il campo sportivo. E ti ascolto, col preampio acceso. Vai. E adesso è verso la buti. Da 7 vai a 5. Verso la buti 7. Al campo 5. Guarda, adesso è sempre verso la buti. Così. 7. E adesso è verso il campo sportivo. 3. Basta il segnale. Però la modulazione è sempre uguale. Ma c'è una buona, radio questa. E deve brillare la internet. No, un privato, dai. Ma ti fa anche 27, ti fa. Sì, tutto. Tutto. Però, vabbè, no, il 27 non va in trasmissione, però. Ah, non va il 27 in trasmissione? No, questa no. Mai, in teoria dovrebbe andare lo stesso. No, tutte le caratteristiche di questa qua non va in trasmissione. Ma solo ricezione da 0 a 200... Bah, da 200 a 2000. Capito, fa tutto, anche HF e tutto. No, perché io avevo la cos'era il mio, la Yaesu piccolino, e faceva tutte e due, e anche gli HF mi faceva. Sì, ma non tutte vanno in 27 però. Io quello che c'avevo ti faceva tutto, sia le frequenze VU e gli HF. Quello piccolino, adesso non mi ricordo il modello. Adesso va benissimo, e per ascoltare poi, non vi bisogna stare dentro la gamma dell'altro radio. Sì, così era così piccolo, però era della Yaesu. Era della Yaesu quello che c'avevo io, piccolo così, uguale. Questo stesso modello, cambiava solo la maschera. Va benissimo, aspetta, rimetto il Baufeng a vedere. Ma come ti mai su 081? Che tende sia? 080 è la frequenza. 81 e 7. Ah, 80 è. 81 e 7. Beh. Questo. Che calori. Non mi intendi. No, parlando stai. Col Baufeng non mi senti? Sì, è più bassa però. Questo è il Baufeng, con l'antenna originale. Dove sì? Sempre nello stesso punto. Tu, ma sei dentro casa? Eia. Ah? Ehi, dentro. Non ti sento. Quello anche in banda può andare. Cosa? No. Ah? No, è solo a MFM. Ah, non ce l'ha la banda? No, le bande non ce le ha, è solo a MFM questo. Sì, ho capito. Comunque, adesso ti sento. Questo è il Baufeng, gruppo 5. Sì, ma l'altro è molto meglio, come modulazione è più forte. L'altro no? Sì, è un abisso issue. Più forte l'altro di radio? Più forte sì, te la fa più grossa la radio. Questo più grosso la fa, il Lico. Sì, questa va benissimo. A voglia. Questa qui è migliore. Adesso sto diventando il Jeggo io. Perché? Beh, sembra che si siano abbassate le luci della degli Smith. Che cazzo, boh. Boh, non lo so. C'è cobisio di Vintendi. No, è bello che secondo me si, sicuramente si stanno esaurendo. E di che radio? Ti ricordi quella, quella radio che avevo preso in scatolato e tutto, la luce che faceva? In scatolato e tutto. Ma 27 mega. Quella base, la Galaxy. Ah, Adesso io faccio male, non vengo lo smette. Basta mettergli dei LED. E poi volevo cazzo regolare questo cavolo di frequenzimetro. Perché? Non ti ricordo, non ti ricordo che è alto, rimane più alto. Ah, non te l'aveva sistemato? Eh sì, già meni, cazzo, vai due a sciapparo, ma si abbia il culo. Purtroppo è introvabile, impegnato sempre. Io non lo so, non li ho mappe, ma come rimane questo? Ma c'è una guida, c'è? Una guida c'è, sì. Mi in televisione, a Sardegna 1, sono fatti vedere l'UFO, chi siamo tutti poi sei di Vanni. Sardegna 1? A Sardegna 1. E cosa c'è l'UFO? Sì, ecco bike, UFO, chi si motto come ti sei di Vanni. Ah, cazzo di ma io non ne avrei preso, anche se non avrei avuto la patente, non ne avrei preso di quella moto. Ma in te c'è chi tu Manzano? 60 km fa con quella col pieno di batteria. 60, è come quella che c'ha Vanni. Mi sembra 60 lo stesso. Ha tre batterie grosse. E queste qua le stanno facendo vedere adesso 50. Ma sai cos'è? Con queste entri dappertutto, anche in ZTL, entri dappertutto, a fare commissioni, sono comodissime secondo me. Capito? E non vivo nulla. Né casco, dizi, né patente, assicurazioni, No, non ce ne vuole, cazzo. Se tu metti una bicicletta, non ce ne vuole, no. Solo che il cazzo andrà a 25. 25 va quello là. Infatti dice che non ce ne vuole per quel motivo lì, perché non supera i 25 all'ora. Andrà a Prata Madre ne bassa la gana. Cazzo, sai che sta andando a Santa Maria di Bisa, ma che non va lì, non so come sono la ricrara. Ah, e pedalando più veloce anda. Pedalando più veloce va. Cos'è? Pedalando più veloce va. No, allora, la pedalata è solo per la salita, per aiutarlo, non è per andare in rettilineo, perché quando sta andando in rettilineo non ce la fa a pedalare, perché gira a vuoto. Ma quello non si può, già lo sai che non si può usare. Invece quell'altro dice che è omologato, quello che abbiamo visto stamattina dice che è omologato e lo può usare l'acceleratore. Ah, il suo acceleratore? Sì, acceleratore, non è a pedali quello, no? È vero, sì, infatti non è a pedali quello lì. È omologato, ha detto che lo può usare, mentre quello che avevi tu no, non si può trattare così. Sì, deve rimanere fissa la manopola. Invece queste stanno facendo in televisione, li sono fatti vedere accelerendi. Ma lo sanno che non esiste questa da Napoli, di chi moto, di chi biciclette. Pagamenti rateali a partire da 30 euro, uffo si chiama. Ehi, già li ho visti, l'ho visti l'altro giorno, anche su internet li stanno mettendo. Se si lasciasse in via Lomberto si ne do rendarito. Altrimenti lasciava mi conosci, mi dava me la ricorsa, la roba di nuovo passa in via Lomberto. No, se sì, no, in via Marghinotti, no, con una di ghiaccio. Boh, lascia per via Sosso Dorra. Sì, boh. Però gli date le rude era doga, veramente bella. Ehi, cazzo, vai l'altro a pagare, 2000 euro. Cazzo, in 2000 euro mi avevo bellato un bel motocarro. vabbè, ma dove la macchina, non è che non vedranno, sicché. Ma insomma, secondo me, boh, sono mezzi, boh, non lo so, e cazzo, se deve andare a Patama, non può manca andare con chi sa. La gana te ne basta. Quelle lì sono motorette per città, per andare via Pascoli, in Oghi, e boh. Sì, già c'è giri in centro a fare commissione, a voglia, con le giornate belle. Sì, ma secondo me non sono omologate per girare in sala quelli lì, perché non sono omologate per girare in sala. Boh, non lo so, credo che si offende vedere in giro, in città, al mare, non lo so. Boh. Sì, paga casa al mare, ma se noi siamo in Oghi e dobbiamo andare a Platamona, quella lì non può andare. Beh, non lo so. Non ti so così. Sì, se si offende, va a vendere, vai da voi, cazzo, va a assicurazione che vi buro. Si aumentano i da voi, sì, a chi tutti si rabbigliano e non si accusa. Mai così, anche quando c'era il GPL, lasci tu il GPL, costava poco, vedi, che dai, che tutti i canti vendessero l'impianto al GPL, da voi, a me, l'hanno scritto in cangada, hanno il bocchio lo coso... Paradassa. Sì, però già conviene sempre, sempre meglio della benzina, ma un bel me, a che con pieno fai un bel di chilometri. Non so, io avevo fatto, per farmi fare l'impianto, l'avevo fatto fare su, nella Lotta Zafira c'avevo, quella sette posti, avevo pagato 1.700 mi sembra, una cosa del genere, e ho risparmiato perché dovevo andare due settimane dopo, dovevo andare in Calabria, cazzo, ho già risparmiato un bel benzina. Conviene sì oggi, comprare direttamente al gas e buco, cosa stai chiedi a benzina che consuma, che costa troppo. Ho risparmiato sì, adesso mi ricordo, per andare là, da dove abitavo io, andare in Calabria proprio, ho fatto 1600 km, 1600 a Torrà, poi stavo lì tutto il mese, ho girato anche lì e ne ho fatto dei chilometri. Infatti vedi che conviene il GPL oggi. Cazzo, mi sono a viaggiare alle 7, fate lo conto, sono che arrivi dalle 7 di Manzano di domani, tutta la notte viaggiando. E fa cosa? E andare in Calabria perché c'aveva la casa mia suocera lì e siamo andati lì. Ah, ho capito. E ci abbiamo fatto le ferie lì tutto il mese. Bello, andiamo bene. Di calori, oggi vi sono 31 gradi, erano oggi. Chi è? Chi è avanti? Chi è? Natalino sono. Chi sei tu che non ti ho riconosciuto? Prova, non ti sento. Non mi senti? Fa un passaggio. Guarda, 1, 2, 3, 4. Qua ti sento disturbato, prova. Prova, 1, 2, 3, 4, dai. Aspetta, mi sposto a vedere. Prova adesso. Guarda un po', mi senti? Adesso ti sento meglio, prova, parla. 1, 2, 3, 4. Un po' disturbato, ma già ti tiro fuori adesso. Cappa. Dove sei? A casa sono. Ah, ma adesso questo passaggio ti ho copiato un po' meglio. Forse la posizione è migliore, sono con un terrazzo. Vabbè. Ci sentiamo a frappi che sto facendo roba, là. Non voglio attaccare quella esterna, l'antenna, ma sto usando questa adesso. Ok. Chi è? Luca, chi sei? Non ti sento. Negativo. È bruciato. Eh beh, della gioia, torre! Tu sei te ne affutti, delle padozzi. E allora? Stamani era zonzo, ha già avuto a Gian Maria e anche a Luca, Luca Flipper. Saluta dirai, e baciati dirai. Ehi, allora, mi so che voi ma chi mi ha chiamato, se la baciano lo scooter che mi son comprato. E quindi te ne sei andando in giro. Andave. E allora, le piace un bel a Gian Maria pure a Luca. È bella, puoi sedere anche in due. Poi è omologata, posso camminare pure la strada. Bella bella. Ma mai dai su. già Gian Maria le piace un bel pure a Luca. Gian Maria ti faccio un pensierino, va. E poi viene una femmina, la firmata dello dramma, ha domandato subito informazioni, le è piaciuta un bel paro babbo. E gli ho dato l'indirizzo e il numero di telefono, ha voluto. Però devi aspettare un mese e mezzo quasi, qua per arrivare, perché l'ho presa dalla Gran Bretagna, proprio dalla Brabica. E dunque ci vuole tutto quel tempo, per via del Covid anche, capito? Grazie. Meglio così, almeno così te ne vai anche un po' in giro, a vedere tutti quanti gli altri. Mi lascia che è andato pure a Maccia della Baba, con i sassi mi figliura, ali punti. Poi in quelle campagne lì giù, aspetta, più giù delle punti. E già so cos'è sempre in giro. A Sassari, i ruati d'ossi, i nocchi. E anche le commissioni, alle poste pure veloci. Ando pure a farmi la spesa con vista. E fai bene. Gian Maria non l'hai inteso stasera, no? No, mi sembrava poco fa Natalino, stava facendo cosa però mi ha detto. Lo sentivo un po' disturbato, ma ce lo tiravo fuori. Sì, ogni tanto entra. Però se non si acconzano, non venuto da davva. Sopra il Sacro Cuore. Penso, non lo so dove abita. In campagna non c'era più. L'avevi affittata e non se ne è più andato l'affittevole. E io sapevo che c'è zia Ghibi che lo Sacro Cuore vuole evitare la moglie, poi non lo so. Non lo so dove abita. Vabbè. Già se rimetterà a posto. Ma dici che sta avuto mia moglie la fratina. Ero Rugani io, così è. Già me l'ha detto che eri basso genere Rugani, già. Io arrivai di picco e mi andando in girella. Avanti a mani, ho giusto mandato in giro, mi. Anche se ho andato a burlare un gap, a ritirarmi il 7.30 e mi ha telefonato che era pronto. E so che è andato il camano a ritirarmi il nido. Meglio così, grazie. Meglio così, ma così giri un po' garito. Appena tutta la strada che fosse con chissà, mi la sogno, fa andare da cavalieri che e non che vicino già non sai un mi fermavo 3-4 volte, a passare con chissà arrivi in 3 secondi. Una motoretta, andà a piedi. Già lo grido. E poi c'è anche, questa va pure a retromarcia. Va tutto va, l'antifurto, l'allarme, le breccie, tutto quanto va. La bretella ce l'ha, la bretella. Tutto va, un aereo. Ciao, grazie, ciao Tore, ah, Tore, visto là. Ah, vai, contento voi, va a motocarro, ma come fa che viaggio di là su? Puro, visto, puro. Me ne vado. Guarda che è questa che ho comprato io. Posso prendere l'abbinamento, diventa come il sidecar, presente ce l'hai. Tore. Sì, dopo diventa motocarro, ci fai anche viaggio di razzo. Sta attento che non sia giornata calda, se no ti ci sciogli. Tore. Ehi, a chi è che mi vuole? Carabinieri di Arda, ciao, sto salutoni. Sì, carabinieri di Arda, saluto da Miri e saluto Burate. Anda via. Sicuro, sicuro, io sono zero busta, cambio. Accoditi, accoditi. Ma con chi stai parlando, Otto? Qua non arriva nessuno. Boh, a me, non so quanto mi arrivi, boh. Io ne aggiungo di fura. Boh, tutti i soci siete diventati. Ma con tu, Claudio, non sei la torre, tu vai a accusare tutti. Chi è? Ma Mario sì. Bisogna che mi hai tirato, eh? Ma c'ho un giocattolino che mi hanno prestato. Ma fra un poco già riattacco le mie, le antenne, e faccio tremare Sassari. Ehi, abbaida, faccio un asciutto io, che ti trimorì. Già faccio la tremareta, e ora dici mi asciutto. Ciao Mario, buonasera, no, come ti sei spostato, non sei uscito e non ti ho sentito, adesso ti ho sentito. Già lo sai che non mi fa spaventare nessuno a me. Quando si può parlare si parla, se no fa 22 alla giura. Ah, già lo sai che io scherzo. Io quando voglio già lo sai che già mi faccio sentire. Adesso questo qui, no, dal mio mi hanno sparato l'antenna e non l'ho tolta. E c'ho tutto quanto fermo, ma prima o poi l'avrà già tutta la piazza e niente, e poi mi risentirete tutti. Piazza, piazza, così diventi il più forte della Teroce, e boh però. Vai, dove? Hai capito chi è? Ho sentito che si chiama Mario, però non ho capito chi è. Il tuo vicino di casa. Quasi vicino. Boh, non lo so. Prova a fare memoria. E poi già lo sai. Comunque sono Mansell, per chi non lo sa. Non sabbia gaira, ga. Non sabbia gaira. Andemmo, ve andemmo. Ah, Claudio, non sabbia gaira. A me non c'è bisogno che mi dica chi è, perché dalla voce è inconfondibile. A voi 40 anni che lo conosco, quindi dalla voce lo riconosco. Io è che poco fa non l'ho sentito. Ti ho detto con chi stai parlando perché non è arrivato, capito? Ciao Manuele, buonasera, c'è anche Graziano, avanti. Ciao Mario, Claudio, Tore e Graziano. Mi sentite a tutti quanti, dai, vai Tore. Sì, ciao Manuele. Cosa vuoi fare? Qua siamo in tanti. Ma aspetta che c'era anche Graziano. Graziano, avanti. Ehi, ciao Emanuele, ben risentito. Avanti. Ma lui non si chiama Emanuele, no? Lui è sempre Cinco. Ehi, Mario. Cinco, mi senti? Sì, a voi la se ti sento, Mario. Pagappa, quanti anni sono passati adesso che non ci sentivamo? Sì, cazzo, me ne sono passati 30 anni, buoni buoni. Pagappa, vabbè, il tempo passa. Adesso abbiamo la barba bianca. Ma ti vedo ogni tanto col cane, ti vedo ogni tanto lì dove c'è Sirio, dove c'è la stazione, ti vedo ogni tanto lì. Ah, oh Mario, Antonella Lecce fa resuscitare molti, cazzo, ogni tanto ne fa resuscitare uno. L'esate di sigla. Allora, tu modulando stai? No, non sto modulando più, aspetta tra io la radio, io entra. A tutti questi effendi. Sì, già lo so, sì. E già fasi bene, dai, toccate che non fasi male a nessuno. Ventina. Cosa Mario? Claudio, ho detto che mi sembra che ne ho una ventina io di apparati. E che non c'ho più l'antenna perché me l'hanno sparata. Vabbè, l'antenna la si può ripiazzare, l'importante c'è il radio, Mario, a futtidini. Già va bene, già va bene. Salutami a Ghisubucco, intanto lì vicino a te, che ho sentito la voce. Avanti, Tore. Ia, già deve essere vicino, infatti. vabbè. Oh, c'era anche Luca, c'era Luca! E pari Dusi, si è dato rubando e si è avviato. Ma buon signori, io saluto tutta la greffa. Così non ne perdo neanche uno. Alla prossima, dai, con questo giocattolino a me mi dà fastidio. Io sono abituato ad usare quelli miei più grandi. Io sono proprio un giocattolo, passa tempo. Sì, vabbè, ma ti dà la possibilità di uscire, dai. Qua bisogna usare quelli, caro Mario, non bisogna usare altre cose, bisogna usare quelli, capito? Quindi abituati, perché noi abbiamo tutti quelli lì. Non se ne possono usare altre di cose. Ma invece che c'ho tipo il toccai, l'ala, il coso, non si possono più usare. I baracchini puoi usare quello che ti piace, però qua in PMR bisogna usare i portatili, capito? Quello che stai usando tu bisogna usare, mi. Peccata, ma questi qui sono giocattolini, E io ero abituato a usare quelle grandi, che con quelle lì già mi facevo sentire. Poi con quel microfono, che se non sbaglio una volta era il tuo, te lo ricordi? Aspetta un attimo. Eia Mario, eia. Vabbè, microfonino, ti metti il microfonino. Capito, però vedi che ci sentiamo tutti. Siamo organizzati con le antennine, va bene. Questi dobbiamo usare, purtroppo la legge è quella, capito? Quindi lascia pedire il radiomanni che non ti gumpettini. Usa quello piccolino e sei a posto. Vai, grazie a... Eia, eia, ma l'importante se c'hai un'antenna bella, ben messa, esci dappertutto anche con questo. È vero, Kraus. Infatti, basta mettere un antennino, anche se non si può fare, ma insomma ti aiuti. Però l'importante è avere il tipo di radio conforme a quello che ci hanno assegnato, poi per il resto. E noia, diceva Franco Carifano, vai Dore. Ciao Mario, comunque un abbraccio, ben riascoltato e fatti sentire, ok? Vai To. Sì, ok. E così Mario, con il portatilino ti metto un antennino e ci lo stesso. E va bene così. Io ti saluto, stammi bene, ci sentiamo alle prossime. Vai, grazie. Eia, ciao Mario, alla prossima. Se non si prende quello mignolo per non stare col portatilino ed è la stessa cosa come il portatilino. Ma già vanno bene. Io mi trovo bene sia con questo che con quell'altro piccolino. Ma funziona bene. Ed è così. Eia, avanti, Tore. Guarda che ci dovrebbe essere. Cinco. Ehi, un attimo che sto cucinando. Riprendo fra 5 minuti. Ma chi ce l'ha di buona cucina? Cata, pronto è Armanco. Andava e anda. E vabbè così. Riprendetela cla. Ehi, aia, solo il cucinaio va. Va bene, va bene. E intanto siete tutti vicino cos'ha, che proprio il più lontano sono io, quando arriva a me poi siete tutti attaccati uno all'altro, quindi la greffa è lì. Mi sa che quello lontano sono io e Antonello e boh. Però già arriva Mario, c'è una buona posizione, anche la casa sua già arriva qua, non c'è problema. Quindi è più che sufficiente, non è che dobbiamo far vedere con chi si divorano, è un question nostro, tanto per scambiare due chiacchiere. Caro Graziano, quindi arriva Rosile, caro. Va bene, attaccalo. Sta attento, però hanno avuto un attimi. A chi su caputteggia, No, no, guarda, se ti uso questo perché mi dà fastidio, devo pulire la bro lunga, appoggiarle in altra banca. Se ti uso sempre questo, cosa? C'ho che vivi a te. Devi pulire alimentatori, comunque sono un po' nuda ed è pronto all'uso. E anche Giulio, dalle punte arriva bene qua, lo senso, io lo sento benissimo. Anche Franco da Sorso lo sento benissimo col portatile. E lui mi sente lo stesso. Infatti arriviamo bene tutti, non c'è problema. Lo già arriva. Va bene, va bene. Oi, oi, oi, e allora Don, cosa mi racconti? Cosa vuoi che ti racconti? Ogni tanto mi racconto qualche cosa, tanto va a passare di... E cosa vuoi che faccia? Mi pongo a studiare, mangiare un ghizzo, un paio d'ore, boh. Sì, già va bene, dai, fregatene, piano piano. già ci fate tutto, non ci sono problemi. E tu, Grazia, un po' assente, non ti stavo sentendo manco qua, come mai? Sono in giro in moto adesso, non è che ci sto entrando alla radio. Qualche volta lo accendo, ascolto un po', però sono sempre indaffarato. Non ci rimango fermo, no. Che se rimango fermo è peggio, sono sempre in movimento. No, ci ho provato. Quando mi sentivo male, sempre fermo in abbiccio, così invece sto in movimento. Oh, Jimmy, a chi non ha viaggio, ma se non so cosa è in giro. Hai visto? Te ho due lobby allora, va? No, io c'ho la moto, già esco, ma non è, sto sempre in giro in moto. Sì. Non aggiù così che faccio, che sta in giro in moto. Va bene, vai, do. Andiamo. E vabbè, meglio così, amaco. E vai un giro ogni tanto. Spese tutto quanto e sei a posto. Almeno esci. Invece di restare qui rinchiuso in casa. Andiamo bene. Sì, andiamo bene, andiamo. Ieri sono uscito. Stamattina sono uscito. Oh, mi ho fatto la commissione che dovevo fare. Poi sono il basso in equipito per Gian Maria e a Giauda Gian Maria, mi sono stato un po' lì a chiacchierare, c'erano altre tre o quattro equipi, burro, un momento da Ilari. Insomma, tra una cosa e l'altra sono tornato a casa che era mezzodì e mezzo. E dunque un po' ti svaghi, e cosa avevo in casa tutta la... No, non esiste. Fai bene, grazie, fai bene. Forse a Romanco esci e ti fai le tue commissioni. Ok, andiamo bene. Sì, prendetela, Claudio. Mi sa che ti hanno sopra schiacciato, boccerà, non so chi era. A te, tu, grazie, hanno tre ruti. C'è la Giada Gian Maria, dici di là. Le è piaciuta un bel... Solo gli avali dovresti allargare la porta del magazzino. Allora mi ha detto si faccia un pensierino, se no ti ruizza a te, alla Galliraiana, a Ciambavilla, là. Se no non vedrà chi l'ha misurata. Sì, mi fermo la forma della moto. Già si può fa i pochissimi mattuccioni, perché il manubio è più largo. Beh, della coda della moto, come larghezza. Se no, ci dovrebbe passare, ma anche così ci passa, se giri il manubio gli entra a stessi. Però è sempre meglio più larga, più comoda, Sì, se no la tagliamo in due, li puliamo le giarniere. No, bastano la metà del mattoccione che c'è sulla sinistra. Chissà via, 10 centimetri più sono, un 15 mi sembra che sia. Con la mola lì, vi intagli e mi fai giù, c'è un lavoro da fare veloce, una giornata, fermo una di a voglia, ma una strisciata di mola lì, e ne voglio la metà di questi mattuccioni, è già fatto. Quindi lo darai, lo segni, fai quattro buche se fra bigliini. Vai, di Giambalaiana, tutto canto, da buio, se si intende. Da buio lo fa rumore, chi, non ti alla Chiraiana e fa rumore tra mezzo, ma se si intende. A filo di muro glielo fai. Caspita, fai che gli ruba quei 5 centimetri, però col telaio. Però quando l'apre è sempre più larga di come adesso è la porta, ci passa giusta quella moto che c'ho io, capito? E ti mi ha detto va la Ianna che va via a casa sua in campagna che è buona, può piazzare pure chissà. Ma da quello che c'è già sono recentrato, già era un casino che si faceva prima, capito? Se entri un chissà, da poi non passi più, non riesci più a far nulla il suo magazzino, fa cose larga, capito? E il magazzino serve a metterci le provviste. cosa che già ne ha spazio, mica l'ho visto stamattina. Di quella parete basta che elimina quello scaffale che c'ha all'entrata, quello lì lo può anche fare più corto, quello. A voglia la buona chivi vicino al banco, là diciamo. A voglia che ne ha spazio. Ma cosa sei dicendo vicino al banco, grazie? Ma ti rendi conto come te, Luruco? Aspetta, già ti per la Caraianna, era un magazzino, sempre chi era un magazzino qui. Noi che la Caraianna e la un magazzino così, a chi non entra, non vi passi. Ma ha abitato Tenisi che è un metro chissà cosa. Bah! E se non prendi l'altro magazzino, buona sei duro. Ecco, allora sì, se prendi l'altro magazzino, allora la puoi punire. Non puoi farlo, grazie, perché si apre la spalletta, non ci sta neanche dentro. Si può fare come stai dicendo tu, ma non vi caso nello magazzino. Lì è 70 di larghezza, amico, con la moto che c'ho io, non è che ci alzerebbe là. Il marubio è più largo, 10 centimetri. Però di larghezza è 70, se l'avremmo misurata da ieri. Ho capito che 60 di larghezza dalla parte delle due ruote di dietro. Solo che c'è tutto il bancone, c'ha tutto il bancone lì, capito? Non ce la fa, non ci entra. E quello c'ha il compressore, tutto lì. A me è abbastanza così. Cioè, se mi si sente la moto da voi, non è che puoi pretendi di andare a banconi, no? Quello già lo so. Però, se devi fare a travagliare un bancone, la moto nella bocca a buona, fatti che ciò che devi fare, da voi se ne andrà a punire. Capito? Cioè, lo so che non è grande. Non lo so, vai to. Un attimino che c'è gente, ci rientro subito. Vai Lu, Claudio c'era, Claudio. Vai Lu. No, non si bunghi, sa, a meno che non è un cortile. A fianco già occupato sono gli altri magazzi. Sono tutto occupato, sì, e mi fa mica c'è un magazzino, grazie. Se no, se gliel'avrebbero affittato uno a fianco, avrebbe potuto allargare, ma si ritratta nei diti. Sono buchi questi magazzini, sono come te che ci hanno fatto i palazzini comunali, i nocchi, giù nel portone, all'interno del portone, buchi hanno fatto. Quello l'hanno fatto per mettere bottiglie d'acqua, capito? Quello l'hanno fatto per mettere quella roba lì, biciclette, non per metterci o moto o macchina. Sì, una moto ci entra, e una, due moto come ci aveva prima Giammaria già ci stanno. Poi se c'è il bancone e cose non vi cai più. Quella che c'hai tu è un po' larga, capito? È un po' difficile che ci entra lì. Che succede? I magazzini non venissero, non ce n'è lì dove c'è Maria magazzini, sono tutti così. No, non ce n'è, però lì le aiuole praticamente, ognuno se vuole si prende il pezzo suo. Ma noi che ti puoi fare un magazzino nella aiuola, no? Non un magazzino, no, grazie, una specie di, una, tipo una baracchella mera, padì. Ognuno che vi si è fatto un pezzo suo, che si è fatto un barbecue, che si è fatto un roscio, capito? Ma se a uno proprio riservi, si pone una baracchella mera di 2 metri x 2 e si piglia il pezzo di aiuola. Sì, passo, è bravo, una baracca e una moto, buru. Ah, è figlia! Aspetta, se portassi baracca e moto, lui. Di cugina e di la camera da letto e di la cameretta, adesso abbatti i genitori. E anche così, tanti che vedi, c'è promontinaggio e non ci sono passato lì a vedere. Da quella parte ognuno lì si è preso l'aiuola, compreso all'ente popolare, viene a futtassare su tutte le piante, le carote, il battato, capito? E chi vuole lì si prende un pezzo di aiuola, e l'importante è che lo curi, perché all'ente popolare interessa quello, così non tagliani ai paesi, l'ha compreso? Praticamente come qua, il giardino di qui sotto lo fa sempre mia moglie, e praticamente lo buri sempre mia moglie, e gli dici che c'è fatta la padrona, e allora va la puri puro giù, usai. Infatti così, ma pensa che di fronte lì, da mia cugina abita lì vicino a Gio Maria, si avviene recintato addirittura lo pezzo dell'aiuola, proprio per rendersi loro, solo che poi col tempo l'hanno abbandonato, però l'avevano recintato, avevano messo il cancelletto, poi l'hanno abbandonato e ne hanno smontato tutto, perché doveva entrare il comune a pulire, però prima era così. Ma mio genero abita in via Bruno Giordano lì, ma c'ha Umberto Giordano, ma c'ha un magazzino, ma un magazzino che mentre una macchina Trento è grandissimo, perché? Boh, è in via Umberto Giordano. Sì, sì, lì di fronte praticamente c'è Tore dietro a Tore, quello è via Umberto Giordano, che c'è quel supermarket piccolino, c'è quella piazza grande. Dove sta Baldino, sta dicendo, mio Lu? Dove? E Lu, dove sta Baldino, sta dicendo? Ho capito. Infatti, dopo Gian Maria sta dicendo, lì ognuno si piglia un pezzo suo, no? Che ce n'è aiuola ancora lì abbandonata. Si boni la baracca da miera, e si boni in chissà motto così. Ma è pericoloso, Lu. Io non l'avrei fatto. Tirabile, ma la baracca e la miera deve essere fatta bene, telecamere, capito, un casino. No, questo il magazzino è grande, è enorme, è un bel grande. Se c'è la porta due ante che puoi entrare con la macchina, è che ci sono i gradini, capito? Lì c'era un negozio prima, non so che cosa c'era, un supermercato forse, E se l'hanno preso loro, se l'hanno comprato loro, ma già da tanti anni, da quando era vivo il padre. Qua ce n'è un bel, anche al latte dolce ce n'è un bel. Dove c'era il tabacchino prima, non so se sei pratico di questa zona, dove c'era la pescheria prima, dove c'era il tabacchino prima, sono tutti chiusi. Infatti chiunque voglia aprire un'attività basta che faccia una domanda alle case popolari, gli danno un minimo d'affitto in base a cosa devi aprire e ti fanno pagare l'affitto, ma ce ne sono parecchi qua chiusi. No, Luca, dove c'era il tabacchino prima, la bonanima del signor Renzo, quello ce l'ha mia sorella, se l'ha preso dall'ente popolare, tre serrande, proprio dove c'era il tabacchino della bonanima del signor Renzo, quello ce l'ha mia sorella in affitto. Io sono passato anche stamattina, ho visto che erano chiuse le serrande. Ma c'è la mia sorella, quello lì in affitto. Quello che dove c'era la pescheria, signora Giuliana, la buonanima, lì c'era una coppia di ragazzi sposini che preparano i tranezzini e poi li distribuiscono alle scuole, li vendono a cura, fanno tranezzini e panini. Una volta che sono pronti c'è il ragazzo che li porta alle scuole, capito? Qua di fronte invece non ci ha mai pensato nessuno di prendersi niente. Non ribadi più l'ente popolare, se anche tu si piglia un pezzo d'aiuola, no? Ma manco non annettani. Vai, Cla, mi senti? Sì, io che ti sento, alla grande, perché? No, perché sto usando un attendino che ho fatto così, velocemente col Baofeng. Ah, va bene, Lu, va bene, Santiago 7, sì. Mi aprite tutti lo squerci, tranquillo, anche Graziano vi fa bene. E io sono, adesso sono nel terrazzo, se no sono in cucina. Arrivi già, ma a me mi sentite, sì? A bomba! Anche tu, Lu, mi senti bene? Sto mandando il video, e così, vedi un po'. Cappa del Rosmetro, va bene, va bene. No, no, vi sento tutti. Cos'è che fai, Emanuele? Io uso sì la radio diversa dalla vostra, ma lo sto usando con la potenza in love, quindi 5 watt, non di più, Ho preso, il ginkgo. Cos'è qua? Mi ha sentato un attimo. Aspetta, che sto usando la radio diversa dalle vostre, non lo so. Comunque io la sto usando a 5 watt, non la uso di più alta, capito? Che cazzo voglia, tu mi vai lì, mi sentite, io sto uscendo, cazzo tu, se tu poni un pezzo di vino si buro con un pezzo di vino. Sì, non esagerare, devo ancora montarne un'altra di antenna, però devo togliere quelle grandi perché mi hanno rotto le balle. Prendono spazio e basta, adesso anch'io i lampatti. Ci vuole una scimmietta, una scimmia, a piccarla, lo dubbo, a sa e smontarne i cavallotti, a chi io vi hanno fatto. Ci mi sceglie le balle, biglio la mola, a vedere che ne farà impressa. Allora. Ti lasciato fatto e dimenticato da quando l'hai detto. Lu, con questo casino che c'è, capito? Chi era impegnato a destra, chi era impegnato a sinistra, ma già lo facciamo. È che noi siamo grassi, siamo grossi, non grassi, grossi. Vivo uno vini, magro. Chi si appicchia, uricara e smonti l'antenna, se no noi non possiamo salirci sopra. Basta a me, Emanuele, che è l'agno. Chi cazzo Emanuele che è l'agno? Io sono più l'agno di Emanuele. Forse sono il più magro io di tutti. Luca c'è, Luca Manicomio, che è un po' più... Però lui è alto, capito? Ma è un bel pericoloso, Lu, è un bel pericoloso. Dammi retta, un bel pericoloso. T'ha giunto il forzo prima, sicuramente faccio danno perché cade sul cartone catramato e lo buca, ma forzo prima con la molla taglia e ne fa la rasura, anche intanto non me ne affutti nulla delle antenne, ce le ho tutte nuove, c'ho anche quella VEU nuova da montare, capito, quindi non me ne frega niente se si rompe. Ma io problemi di altezza non ho mai avuto io, Cla. Piazza vuole il ponteggiatore, da giù di tutto. Il ponteggiatore non so come entra il ponteggio normale, no? Capito? Se soffri appena appena di gozo, è meglio che non faccia mancare il primo piano, sicché. Boh, manda le foto, ma quale devi smontare? Le direttive, il traliccio devo abbassare, non abbassa più di quello, è tutto abbassato. Hai capito? No, io ho problemi io di vertigini, è il peso, non posso appoggiare una scala a un tubo, Lu, e salire, se devi appoggiare la scala al tubo e salire sopra almeno a due metri, oltre la scala, almeno a due metri, per smontare i cavallotti della 5 elementi, cazzo io non ci salgo lì, è troppo pericoloso, ma non per l'altezza, ma per il peso, perché si può piegare il tubo, cazzo, se gaggia cava a terra. Ma come l'hanno montata, scusa, questa antenna? No, te la ricordi, già c'eri tu, ci l'hai dalla datura tre elementi, non te ne menti. Il sistema di Fabrizio c'ho io, quello a parete, telescopico, con la gabbia praticamente che è messa nel tubo, capito? A lì ci arrivo anche io, il problema è che dalla gabbia, da dove c'è il rotore, a dove c'è la 5 elementi, bisogna essere 2 metri. Ho capito, come è stata montata, come è stata piazzata nel traliccio si smonta, non vedo qual è il problema, manda le foto, ma io non ho problemi di cose, non ne ho, se c'è gente che aiuta. C'è gente che non deve avere paura, come l'hai piazzata? Guarda, quella in punta, la 510, non c'era niente, quindi con Fabrizio è stata piazzata praticamente la 510 a terra e poi messo il master dentro il rotore e fino a lì ci siamo. Quando poi sono arrivate le altre antenne che il sistema era già piazzato, e cosa pensi che sia stato fatto? Piazzata l'antenna a terra, a collo, e Fabrizio l'ha piazzata quella, ma l'ha piazzata a 2 metri di altezza. E io non ci salgo, cioè chi deve avere un gatto, io non sono un gatto, no. Vai tranquillo, che se si vuole smontare, tu organizza. Organizziamo, se volete vi dico, per me non c'è problema, se ve la sentite, guarda, io non ho problemi. Smontete il tutto e pulite il tutto, a me manco balle balle me la futti. Io devo eliminarlo quel sistema perché non mi interessa più, capito? Devo montare un'altra antenna verticale e boh, capito? Devo montare la VEU e la e la cosa, la manta va c'è già e basta, non deve esserci altro sul tetto, perché c'ho il dipolo che fa 15, 10, 15, 20, 40 e 80, quindi sento tutto, tutti mi sentono ed è più che sufficiente, a me delle direttive non me ne affutti nulla. E l'abbiamo piazzata a noi quell'antenna lì, già mi ricordo, sì. E non metti la tattuccia di tu, Vanni, che l'abbiamo piazzata noi. Allora, l'atrelemente l'ho smontata da solo, Luca. L'atrelemente è ancora in terra nel tetto. I radiali sono ancora in terra. Il boom è in mansarda, smontato. Capito? Quella l'ho smontata da solo perché ci arrivavo. Ci arrivavo bene, elemento per elemento, la facevo girare. Capito? Me l'ho smontata da solo. Il problema è la 5 elementi che è un ben alto e io non me la sento di salire, ma non perché ho paura, per il peso, perché va a appoggiare la scala al tubo, a meno che non siamo in 2 o 3, allora va bene, ma rasura un voto. No, sempre in 2 o 3, anche se ci salgo io, sempre in 2 o 3 bisogna essere comunque. Certo che sì. Adesso organizzo, vediamo un po', cosa si può fare. Tanto domani, sabato, domenica, prossima settimana, vediamo un po', tanto il tempo tiene, sino a mercoledì ragazzi, sino a martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato piove, leggero, anzi venerdì sembra che ci sia un temporale di passaggio, gli altri giorni, mercoledì, giovedì e sabato, acqua, leggera ma piove. Sì, l'ho visto anch'io. Quindi, capito, è un casino. Poi Lu, lo sai, tu ci sei venuto tante volte qua, non ci deve essere vento, perché anche se la giornata è bella e c'è maestrale o c'è grecale o c'è libeccio, non ti fa lavorare, non puoi stare lì sopra, assolutamente. Ci deve essere una bella giornata, anche se non c'è sole, che la giornata è bella, ma non deve essere ventilata, perché se è ventilata io gioco 4D che devo piazzarmi chissà l'antenna per qui, per il PMR. Anzi, non riesco a piazzarla perché quando salgo c'è sempre vento e non si può, è fastidioso, perché devo rimanere nel cordolo, non ti ricordi, sopra c'è la scaletta nel cordolo, stare lì, e il vento ti sbilancia, gas e caggi, capito? Quindi non ci deve essere vento, è alto, bello, non mi posso lamentare, ma cazzo è sempre ventilato in oggi. C'è vento adesso qua, a casa mia, figurati da te. Come non vento in oggi? Ma vento però, capito? C'è un bel vento. Comunque adesso vediamo come siamo messi. Vai Emanuele, riprendi e fai girare per Grazianetto. Mattore, andatocene. Tu hai detto che era Venegrosa che riprendeva subito. Comunque, quando la deve fare, ho già preso che ho bullo, non ci sono problemi. Capito? Non ce ne sono problemi. Vai, grazie. Eia, beh, bisogna parlare di innovamento, un paio di ore nella trampa in terra. Beh, logicamente una mano, Luca, la vuole per forza, e alla sera non puoi far nulla. E devi guardare, è una giornata che è bella, che non ci sia vento, si buffa, se non ne approfitti questo